Luisito. Dal suo sepolcro resuscitò. Fu flagellato ma resuscitò. Fu messo in croce ma resuscitò. Il terzo giorno resuscitò. Resuscitò. Nacque da donna e resuscitò. Vinse la morte e resuscitò. Apparso ai tuoi, ai tuoi, resta con noi. Dal buio sepolcro Gesù sei risorto e hai detto a noi, a noi, pace a voi. E ora è luce intorno a noi, luce. E gioia che non puoi, gioia. Tenerti dentro al cuore, cuore. Ma che devi andare. E ora è vita dentro noi, vita. È forza che se vuoi, forza. Trasforma la tua storia, storia. Ti riempirà di gloria, gloria. Thank you.